delle esigenze relativamente più importanti, tipo bere e mangiare, respirare e ogni tanto sognare. Cosa mi rimane che mi serva per andare avanti in un mondo apparente che ci rende distanti? Beh, se questo è il futuro, non somiglia alla vita che sognavo di fare. Sommando tutti i minuti non mi restano altro che pratiche da sbrigare. Ma sì, ma chi se ne frega, tanto a me nella vita mi sta bene così. È meglio una fuga che rimettersi in riga ad aspettare che qui arrivi un domani. Me ne lavo le mani e mi rimetto a dormire. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire. La vita va avanti. La vita va avanti. Nonostante le allettanti promesse di carriera e di successo, quante vane illusioni da buttare nel cesso, e quante ancora le trafile che cambiano negli anni il nostro viso, senza avere nemmeno santi nel paradiso. Ma sei proprio sicuro che ne vale la pena darsi tanto da fare, per poi finire col culo sulle riviste del gossip a farsi chiacchierare? Ma sì, ma chi se ne frega, tanto a me nella vita mi sta bene così. È meglio una fuga che rimettersi in riga ad aspettare che qui arrivi un domani. Me ne lavo le mani e mi rimetto a dormire. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire. La vita va avanti, ma sì, la vita va avanti, e prima o poi farà il giro ripassando da qui, ma fino a domani me ne lavo le mani e mi rimetto a dormire. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire. Ma chi se ne frega? La rira la ra. La vita va avanti. La ra ra ra ra ra. La vita va avanti. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La vita va avanti così. En italià ha sonat aquesta cançó fantàstica que ens aportava Massimo Di Cataldo, un dels meus artistes preferits, que arribaven des de la bota transalpina. Era des de l'àlbum Maki Sinefrega, publicat el passat 2010, amb la cançó del mateix nom, Massimo Di Cataldo. De fet, l'àlbum, el senzill sí que va ser publicat el 2010, l'àlbum era del 2009. Recordem temps enrere, amb Sopa de Cabra, sempre amb tu. Caigut dins del teu nom. no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying ahead. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you followed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. Des del 1995, Alanis Morissette, amb aquesta cançó, que pertanyia al seu àlbum Jagged Little Pill, el Head Over Feet, que recordaves també a través de Musicopolis. I aquest és un duet que ens arribava temps enrere, no fa pas gaire tampoc, de l'àlbum De Part en Part. És un duet entre Marta Sánchez i Nena da Conte, es deia Soy Yo. Sin más, sin comprender cómo ni por qué me dejaste mal. Thank you. Rimes lents, romàntics, tendres, d'Ivec, amb aquesta cançó que es diu Quan cau la nit. Abans us presentàvem a Musicòpolis, també us portàvem la música de Marta Sánchez i Nena de Conte, Soy Yo. I ara us presentem aquesta cançó d'Alice Cooper, que es diu I'll Bite Your Face Off, atenció, perquè és dura, de Bob Ezrin, amb la cançó de l'àlbum Welcome to My Nightmare. És una de les darreres peces que ha editat. Sentim-la. Tancarem la paradeta amb aquest segment del nostre espai de Musicòpolis i ho farem amb Tayo Cruz, amb Telling the World. Digue-li a tot el món. Every part of my heart I'm giving out. Every song on my lips I'm singing out. Any fear in my soul I'm letting go. And anyone who asks I let them know. She's the one I say loud. She's the one I say proud. Ring the bell for the whole crowd. Ring a bell, ring a bell. I'm telling the world that I found the girl, the one I can live for, the one who deserves. Every part of my heart I'm giving out, every song on my lips I'm singing out, any fear in my soul I'm